America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, vi ho parlato qualche tempo fa da Los Angeles delle nuove frontiere di internet, vi ho parlato della banda dei quattro: Apple, Facebook, Amazon, Google, insomma i quattro moschettieri che dovrebbero in qualche modo conquistare questa nuova frontiera. Ma ci sono sviluppi legati a internet di ogni genere ogni giorno. Abbiamo parlato di crimini su internet, abbiamo parlato di intrusione nella privacy, e dunque per cercare di tirare un po' le fila di questo discorso, che è un discorso che continuerà, ho con me ai microfoni di America 24 Gianluca Rattazzi, uno dei più conosciuti italiani a Silicon Valley. Gianluca Rattazzi in questo momento è Executive Chairman, quindi il presidente esecutivo di Envivio, una società che sta per andare public, che è ancora privata, una startup fondata alcuni anni fa in effetti, ma è una società di quelle di cui parliamo spesso, che presto sarà sul mercato. Non solo, Rattazzi ha anche fondato altre società, ha lanciato vari IPOs, è uno di quelli che ne ha fatti di più a Silicon Valley, ve ne ricordo alcuni: Parallan, Pycom, Meridian Data, Blue Arc. Alcune di queste sono state poi acquistate da altre società, alcune sono rimaste autonome. E dunque, Gianluca, allora, intanto una osservazione. Eravamo insieme al convegno di Walt Mossberg e di Kara Swisher. Insomma, si respirava un'aria molto aggressiva sul piano del consumatore. Ormai il consumatore è al centro, il consumatore è il premio. E mi ha colpito in questa definizione della banda dei quattro di Eric Schmidt, ovviamente l'esclusione di Microsoft. Ma possiamo davvero escluderla Microsoft? Perché si sta muovendo mica male, ha fatto alleanze con Facebook, lavora con Hewlett Packard, ha presentato questo suo nuovo prodotto software piuttosto aggressivo di touch sul video. Ecco, qual è la tua impressione? È una domanda un po' difficile. Se tu guardi la storia di Silicon Valley, come ha detto Eric Schmidt, le compagnie crescono, vanno molto bene, poi arrivano un periodo della loro vita dove le cose continuano ad andare avanti, ma la crescita non c'è più e la visione si è persa. Oggi nessuno che fa partire una nuova compagnia dice: vediamo cosa sta facendo l'IBM perché mi devo difendere dall'IBM o devo seguire la visione dell'IBM. Io direi che la stessa cosa è successa a Microsoft. Oggi nessuno dice: vediamo dove sta andando la Microsoft perché loro sono più furbi degli altri, vedono il futuro meglio degli altri. Quindi una compagnia gigantesca con enormi profitti, con tante persone, non è più all'avanguardia, quindi la gente non la segue più da un punto di vista strategico, dicendo dove andiamo. Ecco, Gianluca, tu hai una storia molto interessante, vogliamo raccontarla. Come sei arrivato a Silicon Valley? Che cosa ti ha portato dall'Italia? Di dove sei intanto in Italia? Di Roma. È successa una cosa strana, io facevo il fisico nucleare e conobbi Emilio Segre, il premio Nobel per la fisica, che stava a Berkeley ed era venuto in Italia per lavorare 2 anni. Lo conobbi per caso, incominciai a lavorare con lui e dopo la laurea lui mi offrì l'opportunità di venire a Berkeley per fare ricerca e un po' di insegnamento. Quindi mi trasferì a Berkeley nel 1976 a lavorare, e mentre lavoravo a Berkeley scoprì che il mio interesse era più nel mondo dei computer, del software che della fisica. Quindi attraverso 4 anni ho da una parte studiare il mondo dell'ingegneria elettronica, il mondo dell'informatica, e insegnando fisica ho avuto una trasformazione di me stesso che mi ha fatto trasferire a Silicon Valley quando si stava all'inizio del mondo del personal computer, che nel 1980 ancora non esisteva. Ecco, come nascono le idee? Cosa possiamo dire ai nostri giovani che ci ascoltano e che magari sognano di potersi inventare uno startup nel settore elettronico? Ci vuole un ambiente come quello di Silicon Valley che diciamo aiuta alla formazione, alla creazione di idee e poi alla realizzazione? C'è un ecosistema con fondi di investimento e così via, oppure così da una semplice idea può nascere qualche cosa di importante? Secondo me da una semplice idea può nascere qualcosa di importante, però le compagnie o le persone che tipicamente hanno successo uniscono una visione, un'idea e poi la capacità di realizzare la loro idea. Ora, per realizzare un'idea ci vuole un'infrastruttura, quello che è molto bello in Silicon Valley, che ci stanno i venture capitalist che investono in un'idea, bastano due persone con un'idea brillante, gli danno i soldi per partire, le banche li aiutano, altre compagnie incominciano a comprare i loro prodotti. L'Italia è un paese dove trovare capitali non è facile, le banche non prestano soldi a piccole compagnie, i consumatori sono molto più restii a comprare da una compagnia che non si è mai sentita nominare. Quindi diciamo non c'è l'ecosistema che esiste qui in Italia, io non lo vedo. Ecco, però prestiti, liquidità, possibilità di crescere, un ecosistema che qualcuno dice porta anche a delle bolle di borsa, se ne parla molto, soprattutto su internet. Sei d'accordo su questo? C'è un rischio bolla in quello che sta capitando su internet? Ora, se c'è una bolla in alta tecnologia è difficile, perché è vero che le valutazioni sono alte, ma i livelli di crescita sono incredibili. Se guardiamo Groupon, che ha appena fatto domanda per listare le azioni in borsa, Groupon sono andati da non avere vendite nel primo anno a fare 10 milioni nel secondo anno, a fare 670 milioni nel terzo anno e nel quarto anno, che è il 2011, hanno fatto 670 milioni nel primo trimestre, quindi una crescita che non si è mai vista nel mondo, in nessuna industria da un anno all'altro. Quindi qual è la valutazione di queste crescite che fino a anno fa, che non esisteva lo sviluppo di internet che abbiamo oggi, non erano impensabili? Quindi è molto difficile da dire, perché è vero stiamo entrando in un nuovo mondo, ma uno potrebbe anche vederlo come la trasformazione dalla gente che girava col carretto e il cavallo alle macchine, che sono diventate un business di centinaia di miliardi di dollari. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dave Haynes, ex cantante dei Test Icicles, sottolineo il gioco di parole, ha annunciato l'uscita di un nuovo album dal titolo Coastal Grooves sotto lo pseudonimo di Blood Orange. L'album uscirà il 29 agosto. Blood Orange, The Nerd. Always on your own. Don't consider trying. Tried you on the phone, but you considered lying. Never had a doubt I'm losing. So tiny in my room, trying to be careful. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!